L'avioporto di Bengodi? Mi diceva nonno Cleto che l'avioporto di Bengodi è il più alto esempio dell'imbecillità umana. E me lo raccontava tutte le sere, prima di andare a dormire. Fuori c'era un cartello di cartone, quello delle pizze, inchiodacchiato sopra il tronco di un ginkgo biloba che era nettamente fuori peso. Sopra c'era scritto «Avioporto di Bengodi, sagrato di fermata e ripartenza di apparecchi a aeromobili specializzati». E poi sotto, a matita, 413.327 passi a un tacco dal mare. E quando sbriciolava la seconda scritta con la matita, a nonno Cleto gli si alzava il naso sotto gli occhiali di soddisfazione, perché c'era andato anche lui a fare il conto dei passi insieme agli altri: lustramarmitta, paracarro, scagnabiglietti, il vigile, il postino, Maria faccia da stella panettare e culo di gomma davanti a tutti, con la faccia da guida turistica e la tuta sporca d'olio a forma dei continenti del mappamondo. Maria faccia da stria, con i viveri per tutti i vivibili lungo il battaglione, conta passi, pane e salame. Pane tanto, tanto da farci polpette e da arrivarci loro, dico, le polpette di pane per prima al mare, salame per la verità poco. Perché erano i tempi della guerra, quelli di mio nonno Cleto. Guerra, sopravviversi alla giustizia. Quasi 3.000 anni di guerra. E allora tutti gli uomini, calzini, mutande, diventate quasi cappelli, pelli di cappelli come quasi mutande, i calzini, la panettara, il pane, il salame, poco, per la verità, poco, tutti alla dritta del mare. Perché? Perché un avioporto con le palle va posizionato perfettamente matematicamente sulla cartografica, sì, certo, ma va anche matematicamente contato con i passi dal mare. Questa l'aveva detta mio nonno Cleto. E quello di gomma gliel'aveva rubata subito, lui, e nonno Cleto gliel'aveva lasciata, tanto gli bastava, diceva che l'avioporto fosse contato e bene dal mare, non era mica da decidere, diceva, chi piantava per primo la bandiera o l'ombrellino sulla panna montata della luna, diceva nonno Cleto. Succede però che, arrivati sulla spiaggia, dopo più giorni che fette di salame, i passi erano tutti diversi. Nelle teste del caravanserraglio, 611 per paracarro, 1427 per lustramarmitta, 311 ne aveva contati nonno Cleto, e addirittura 722.429 il postino. Dicono sarà che aveva il 22 di piede il postino, e 100 tondi giusti tondi invece per il vigile, che era sempre stato un democratico. Maria faccia da stria invece arrivò lì alla spiaggia e poi cominciò a farfugliare mezzo numero storpio. E poi cominciò a gridare che non poteva fare tutto lei, occuparsi del pane, del salame, poco per la verità, poco, e contare che, signori, il contapassi dal mare non è mica un albergo, no? Allora lei le venne assegnato un 1.000, politico. E poi fecero una media tra tutti i numeri, il sudore del viaggio e il fatto che, tra l'altro, nessuno di loro sapesse esattamente contare, e uscì quel 413.327 passi. E mezzo tacco, che quello di gomma ci aggiunse per arrotondare. Ci tenevano altro che all'avioporto, già ben godi. E i passi li hanno incodolicchiati fuori, sul cartello. Fuori. Dentro. Dentro era tutta una sinfonia di muri e muretti vicino al sagrato delle piste. I tetti dovevano ancora farli, per il vero, perché non c'erano mica le tegole, che erano tempi di guerra quelli, ma nonno Cleto diceva che erano contenti così, perché li avrebbero visti sopra le crape, gli avioplani, quando è che avrebbero finalmente volato sopra i tetti che non c'erano. Poi, su consiglio del postino, ci avevano anche piantato una bella stop bar, che doveva essere un semaforo. Doveva essere lì per evitare l'invasione, magari, degli altri aerei sulle piste. Che doveva essere, per il vero. Perché al posto del semplice semaforo, quello come lo conoscevano tutti giù in paese, no? Quello rosso, poi verde, che l'arancione non c'era perché erano tempi di guerra, al posto del semplice semaforo ci avevano piantato lì all'ingresso della pista del sagrato di rincorsa principale quell'asta un po' egiziana, una cosa giù di quei cieli lì, che a tutti quelli che salivano a seguire il montaggio dell'avioporto sembrava uno standino con attaccato delle palle natalizie, la stoppavarra. Bah! Poi, su un altro consiglio del postino, che dice nonno Cleto, guarda Giulio, che mi sa che era la settimana santa della creatività del postino, si vede, quella giù a Bengodi, e ci avevano piantato anche un paio di tobogan in mezzo, ai lati. Ci avevano, culo di gomma e la sua mazza, per il vero, che aveva martellato degli strani ferri appuntiti in mezzo ai lati, e nessuno sapeva che cosa servissero, per il vero. Ma culo di gomma disse che erano cose straniere, di foreste, straniere, e che non c'è mica da farsi troppe domande sulle cose che non si conoscono. Vabbè. Cartello, muri, stoppabarra, mezzi muri, ginkgo biloba, toboga e niente tetti all'avioporto di Bengodi. Ci tenevano altro che all'avioporto di Bengodi. Nonno Cleto, Ti ricordi? Mi ricordavi delle piste. Niente piste, non siamo mica alle gare delle Formule 1, disse quello di gomma. Sì, vabbè, ma una sola, una almeno, dico, per il decollo, una almeno ci serve, no? E allora? E allora si presero democraticamente i ciottoli del sagrato della chiesa. Si presero. Quello di gomma è la sua mazza, per il vero. Che il prete non l'ha presa benissimo. E no, il prete ha schivato una scomunica per un niente, il prete, per la sua reazione. Poi li hanno tutti riacciottolati, belli sagrati, sulla pista di rincorsa principale. Li hanno. Quello di gomma è la sua mazza, per il vero. E nonno Cleto e gli altri a buttarci la sabbia. Le donne giù in paese a cucirci i pizzi. E il vigile di corsa a piantarci un cartello. Bello, lucido, nuovo. Di divieto di sosta. Firmato dal prefetto, autografato dal prefetto, per il vero. Ci teneva un altro che alla via Porto Gioven Godi. È che intorno a tutti questi sagrati, no? Intorno, dico, alla pista, quella di rincorsa principale, intorno c'erano campi e pomodori. E campi di pomodori nel migliore dei casi. E l'ustra marmitta, che era stato zitto tutto il tempo, appeso sempre a quel suo 1427 di contrapassi dal mare, provò a spiegarlo che non c'era una strada, uno, che portava dalla città all'aeroporto, due, le stradine per spostarsi dentro. E diceva che se per caso qualcuno, dico, sull'apparecchio, o l'apparecchio stesso nel migliore dei casi, avesse dovuto, che dico, andare a fare la pipì magari, no? Lì nel bagno quello senza tetto di mezzi muri che stava lì poco lontano, diceva che non c'era una strada, un sentiero, un qualcosa da passarci sopra, sotto, dentro. Sì, ma tanto per la pipì. Ma è tutto campi, zitto. Quello di gomma, mi diceva nonno Cleto, che quello di gomma c'era rimasto. Tutto stecolato, senza risposta, e anche lui senza il tetto sopra, alla strada per arrivarci alla via Porto, alle stradine per spostarsi dentro. Non ci aveva pensato, proprio no. E nonno Cleto mi diceva, da quando ero un bambino, che non mi sognavo nemmeno, dico, di avere paura, qui, incastonato al neon di una sala d'aspetto, che pensavo fosse finita la guerra a sopravviversi alla giustizia. Pensavo che bastassero 3.000 anni di guerra, no? E che magari ci venisse anche qualcosa di resto. Nonno Cleto mi dice che per un po' quello di gomma al cantiere non si è più visto, non si è più sentito. E la sagra per l'inaugurazione della prima rincorsa del primo apparecchio l'hanno dovuta ripiegare in amidire e rimettere nel cassetto insieme alla lavanda. Ma continuavano a tenerci altro che alla via Porto, Gioven Godi. Quando è tornato quello di gomma, qualche mese dopo, quando è tornato, qualcuno diceva che avesse smesso di pensare che un aeroporto, dico, sia una cosa da niente a montarlo. Qualcuno diceva invece che si era esercitato a disegnare delle strade a forma di linea. Qualcuno diceva che ci vuole una testa tutta ingegnera e matematica per fare gli aeroporti come Dio comanda. E nessuno lì in paese quella testa ce l'aveva, forse neanche addirittura il dono. Qualcuno diceva che credetemi è meglio, fidatemi, che gli uomini stanno meglio con le scarpe piantate per terra. Quando è tornato qualche mese dopo, quello di gomma aveva una faccia distrutto che sembrava che gliel'avesse prestato Maria Faccia d'Astria alla panettara, dico, lo strutto. Gli apparecchi se le disegnano da soli, in cielo e per terra le strade, disse quello di gomma. Silenzio, distrutto. Gli apparecchi se le disegnano da soli, in cielo e per terra le strade, dico, sarà stato anche quello di gomma, no? Ma le strade ci servivano dentro sto benedetto aeroporto. E allora? E allora tutti via con le strade, tutti a battere i sentieri dai mezzi muri che portassero finalmente alla pista di rincorsa del sagrato principale. Tutti, quello di gomma è la sua mazza, per il vero. Poi lui è offeso senza dire niente, finita questa ragnatela di strada in un tempo di piatti, di fichi e lenticchie. Mi dice nonno Cleto che quello di gomma, che era diventato tutto badilate e mosche, mi dice nonno Cleto che quello di gomma ci mise fuori lì di fianco al cartello anche un lucchetto. Almeno per il prete, disse. Che ci manca solo che con tutto sto da fare torna il prete a riprendersi il suo sagrato, no? E quando al mattino tutti salirono su alla via Porto di Bengodi, mi dice nonno Cleto che a guardarlo dall'alba, neanche troppo, con tutte quelle stradine di strade appiattite dal badile e le mosche di culo di gomma, sembrava che l'ingrugnimento che aveva ingrugnito fino a ieri il badile e le mosche di quello di gomma, se avesse una forma, dico, l'ingrugnimento da potersi, non dico parlare, ma dico disegnare, avrebbe avuto quella forma lì, l'ingrugnimento, quella forma delle stradine dentro l'avioporto di Bengodi. E il vigile, che ne capiva, no? Di strade, croci, incroci, ponti, dislivelli, altro che, se ne capiva, era il vigile, dico, ci rimase lì a lisciare con gli occhi tutto quell'ingarbugliamento, senza più a riuscire più ad uscire più dal via, e che lo faceva tutti i mesi, con i giochi enigmistici. Che non c'era mica la settimana enigmistica, eh? Erano tempi di guerra, e c'era il mese enigmistico, se già andava bene. perché se sguinciavano una bomba per un colpo di vento usciva magari il semestre enigmistico. Comunque il vigile ci rimase con gli occhi a lisciare lì tutto l'ingarbugliamento e tutti gli altri già a guardarlo, ad aspettare la sua. Che dico, era il vigile? Doveva firmarlo lui il foglio di via prima dell'inauguramento e tutte quelle altre cose lì. Il vigile, mi racconta nonno Cleto, che per la paura con la testa che gli entrava dentro il collo, il vigile e la sua testa, tutto sulla stessa linea, altezza di contapassi dal mare, il vigile una parola sola gli uscì dalla bocca che ormai gli era finita dentro al petto, una parola sola che secondo lui quell'avioporto lì con tutte quelle stradine a lui sinceramente dico ci sembrava un po' pericoloso. Pericoloso? E poi giù un silenzio, che a ripensarlo, dice nonno Pietro, sembrava un anno, un biennio enigmistico, pericoloso. E la faccia di culo di gomma è ben godi, tutta, giù in paese, a destra del paese, a sinistra del paese, su dal paese, per tutti i lati del paese, muta, zitta, muta, come ad aspettare il primo fuoco artificiale, tutti giù a guardarlo. Culo di gomma, che ci sparasse una badilata da impiantarlo lì, quello stronzo di un vigile, che succedesse qualcosa, che ne so, magari che arrivasse senza avvisare anche il primo aereo, dico a farlo respirare un secondo quel Cristo santo di silenzio, che non voleva più staccarsi, che rimaneva lì a ciondoloni a ridere di tutti. E allora nonno Cleto mi dice che a quel punto, mi dice nonno Cleto che un attimo per scrignire un po' quella situazione, che dico c'era un po' incarognita, no? Dice nonno Cleto che lui non aveva mica fatto geometra, architetto, quelle cose lì, no, aveva fatto scuola di panetteria, nonno Cleto, però fece la prima cosa che gli venne in mente, per il bene e per la sicurezza di questo nuovo avioporto di Bengodi. Stappò una bottiglia di Lambrusco, perché erano tempi di guerra quelli. E il botto, e tutti su a ridere, tutti pronti ad apparecchiare l'inauguramento dell'avioporto di Bengodi, sagrato di fermata ripartenza, di apparecchi aviomobili specializzati, per sotto matite e sole piccole, c'è di 12 metri, che passa salito tacco nel mare, tutti con i calzini, giù a prendere le torte, le tovaglie e tirarsi sui calzini, e il vigile, con la faccia che gli usciva dalle spalle, che ci metteva un palmo anche lui sotto un giro di Lambrusco per bere quel suo pericolo. E che si era tuffato anche lui a fare un bagnetto in un bicchiere di lingua, perché ci tenevano altro che al porto di Bengodi, ma ci tenevano anche a Lambrusco. Io vengo quasi 3.000 anni, ma per fortuna, mi dice nonno Cleto, per fortuna che è solo una favola. Milano, buongiorno. Delta India Eco Victor X-Ray sta scendendo adesso dal livello di volo 280 a 250. Sono le 6:39 minuti e 37 secondi di lunedì 8 ottobre 2001, quando un Cessna Citation 525A partito da Colonia annuncia il proprio arrivo al centro di controllo regionale di Milano. Riceve l'autorizzazione a proseguire la rotta, passando su Saronno. L'aereo appartiene a una società tedesca, l'Air Evex. È stato costruito negli stabilimenti Cessna alcuni mesi prima. L'immatricolazione risale addirittura al mese precedente. L'aereo ha sui fianchi le lettere D, I, E, V, X. Delta India Echo Victor X Ray, secondo l'alfabeto fonetico internazionale. È importante per la nostra storia, che non è propriamente una favola. A bordo ci sono due piloti, Konisman e Schneider. Konisman è il più anziano dei due, ha 64 anni, 12.000 ore di volo di esperienza. Allineato e atterrato, ripartito 7 volte. Schneider ha 36 anni, 5.000 ore di volo di esperienza proprio su un modello Cessna, come quello. Allineato e atterrato e ripartito 5 volte, 13 volte e 17.000 ore di volo in due. Devono ripartire quella stessa mattina per Parigi, per un volo privato. Buongiorno e nebbia, su Milano, l'8 ottobre 2001. Mentre Cessna prosegue il suo volo, a terra la visibilità è inferiore ai 100 metri, cioè allineate. Quel giorno si vedeva poco di più che da me all'ultima fila. E né l'aereo, né i piloti potevano atterrare con quelle condizioni di visibilità. Dovevano vederci almeno a 550 metri, 5 volte e mezza tanto. È scritto nel piano di volo, trasmesso la sera precedente alla direzione di circoscrizione aeroportuale di Linate all'ATA, la società Ali Trasporti Aerei, che gestisce l'assistenza sul piazzale Ovest per conto della SEA, che è la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. I due non potevano atterrare. E nessuno degli operatori radar ha il diritto di impedirlo. Perché è l'ufficio di Linate dell'ENA, l'ente nazionale dell'aviazione civile, l'unico che può verificare abilitazioni o capacità di volo di aerei e di equipaggi. L'ENAC non li ferma. L'ufficio ENAC controlla gli aerei a campione, cioè uno ogni tot. Il Cessna quella mattina schivato, peccato, niente tot. L'unico che sembra porsi il problema è il controllore di Milano Avvicinamento. Delta Victor X-Ray, qui Milano Avvicinamento, scusate. Il dato aggiornato relativo alla visibilità indica ora 100 metri, con RVR 200 ai punti A e B. RVR è la distanza fino alla quale un pilota in pista riesce a vedere le luci. Qui Delta India, ricevuto. Ok, continuate con l'avvicinamento, affermativo. Il pilota tedesco non si preoccupa. 2 minuti dopo avvisa di essere pronto ad atterrare. Il controllore riporta le condizioni sulla pista. Vento calmo, visibilità generale 100 metri, nebbia. RVR 175, 200, 225 metri. Alle 6, 59 minuti e 34 secondi, il Cessna atterra sulla pista principale dell'aeroporto di Linate. L'aeroporto è dotato di un'altra pista, esattamente parallela a questa, serve per i piccoli aerei. Dall'altra parte, invece, corre per tutta la sua lunghezza una via di rullaggio. L'8 ottobre del 2001 quella via di rullaggio non aveva un nome. La chiamavano, per semplificare, principale. Anche lei è collegata alla pista principale con 4 vie di circolazione interna. Proprio di fronte a una di queste, R2, Romeo 2, parte R6, Romeo 6. È importante per la nostra storia. Proprio su questo raccordo, da qui a poco, passerà il Cessna. L'aereo a terra arriva per errore un po' lungo e supera l'uscita per R6. Qui ecco Victor X-Ray al suolo, scusa Torre. Possiamo fare una breve inversione per tornare su R6? Sì, qui Torre, Delta India al suolo, riportate liberando la pista su Romeo 6. Sì, qui Delta India, Torre, richiamerò su Romeo 6. Cessna ci passa su Romeo 6. Delta Victor X-Ray, stiamo entrando su Romeo 6 ora. Roger, confermate pista libera? Delta Victor, confermate pista libera? Affermativo, siamo ora su Romeo 6. Ok, continuate per l'aviazione generale. Arrivederci. Il raccordo R6, che appena preso al Cessna, è una via di rullaggio che serve per gli aerei che atterrano sulla pista principale e devono raggiungere il piazzale Ovest. Oppure viene usata anche il contrario. Per gli aerei che partono dal piazzale Ovest devono decollare e quindi percorrono tutta il Romeo 6 per poi attraversare la pista principale, imboccare il Romeo 2 e percorrere in tutta la sua lunghezza la via di rullaggio che chiamavano principale, anche lei ovvio, per semplificare, oppure con una lunga inversione a U direttamente sulla pista principale perché gli aerei si svalutano per il tempo che vivono, come tutte le macchine. Come noi quando siamo passeggeri. Più tempo, meno soldi. Scorciatoie, meno tempo. R6 è dotato di una linea centrale gialla dipinta al suolo con delle luci verdi per tutta la sua lunghezza. Il Cessna incontra dei segnali dipinti al suolo. Servono a regolare la movimentazione nei due sensi di marcia. Sulla R6, proprio lì, immediatamente a ridosso dello sbocco sulla pista, c'è un segnale di attesa per gli aerei che si avvicinano in condizioni di buona visibilità. A 360 metri verso l'interno c'è un segnale intermedio per gli aerei che si avvicinano in condizioni di bassa velocità. Lì, associato a questi segnali, c'è per terra una striscia di luci rosse incassata nel terreno, trasversale al senso di marcia. Tutti questi segnali in questo momento non interessano al nostro Romeo 6 perché sono girati esattamente dall'altra parte. Tutto questo grande sciorinare di barre e luci si chiamano stop bar. quelle che giù a Bengodi chiamavano stoppabar. O almeno, dovevano essere dello stoppabar. L'ICAO, l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, prevede che in qualsiasi aeroporto, in qualsiasi angolo del mondo, lì dove si incrociano due vie di rullaggio oppure dove si incrocia una via di rullaggio con una pista, ci deve essere per terra un segnale di stop e una barra trasversale di luci rosse. Dicono, quando le luci rosse sono accese bisogna fermarsi e le luci verdi devono essere spente. Beh, semplice, no? Ah, al contrario si passa, un po' come il semaforo sotto casa nostra. Non come a Bengodi. A Licao, a differenza del postino, sanno perfettamente a che cosa serve uno stop bar. Sulla planimetria dell'aeroporto di Linate nel 2001 c'erano segnate 5 stop bar. Bene, ma nella realtà solo 3 di questi 5 erano effettivamente dipinte al suolo. E di queste 3, soltanto una era controllabile dalla torre. Quella sul Romeo 6. Non poteva essere controllata dalla torre. Per cui le luci rosse e le luci verdi erano sempre accese, insieme, come i semafori giù a Bengodi. Il comando a distanza della torre è stato disattivato nel dicembre del 1998 perché l'ENAV effettua nei giorni 9, 10 e 11, con dei tecnici apparecchi aeromobili, dei sopralluoghi all'illuminazione di piste e raccordi. Non va benissimo. No. Il ministro dei trasporti Burlando sollecita in tutti gli aeroporti del paese l'adeguamento agli standard dei sistemi di sicurezza. Non va benissimo, no. Il 16 dicembre del 98 arriva in torre una comunicazione che dice: a seguito di interventi per rendere gli impianti in oggetto rispondenti alle prescrizioni ministeriali, sono state apportate alcune modifiche. Sentiamo. Le stop bar sul raccordo 6 non sono più comandabili dalla torre, per cui risultano sempre accese e sprovviste di allarme acustico. Su R6 le luci sono sempre accese e sprovviste di allarme acustico dal 1998. E poi, se qualcuno è un po' curioso, scopre che neanche prima, che era una norma, non andavano bene neanche prima, perché le luci rosse si potevano accendere e controllare dalla torre, che è appunto di controllo, le luci verdi no, erano sempre accese. Non andava bene neanche prima, no. L'allarme acustico, no. Serviva solo ad avvisare se per caso o per sbaglio qualche Cessna entrava distrattamente nella pista, ma l'allarme dava fastidio ai controllori e ai professori, perché bastava un'interferenza, un passaggio di una lepre o di un uccello perché suonasse, e poi toccava fermare i decolli già iniziati e perdere tempo. Le compagnie protestano, telefonano, si incazzano. Tocca fermare i decolli e perdere tempo. E gli aerei si svalutano per il tempo che vivono, no? Come tutte le macchine, come noi quando siamo passeggeri. Più tempo, meno soldi. Scorciatoie, meno tempo. Non va benissimo. R6 ne esce malissimo e viene declassata. Viene stabilito che in condizioni di bassa visibilità nell'aeroporto di Linate tutto il traffico che parte dal piazzale ovest deve andare a nord, sul Romeo 5. Povera R6. Romeo 5? Ah no, Romeo 5 la sarà veramente lunga. Prima verso nord, poi gira un po' verso destra, qui si incrocia con la pista turistica per poi proseguire e incrociarsi con l'ideale prolungamento, quello della pista principale. Lì per terra c'è una stop bar. Vera. È l'unica che funziona dell'aeroporto. Anzi, si raccomandano di fermarsi a quella stop bar. Perché nel 97 era successo che un volo all'Italia aveva abortito la manovra di decollo perché il pilota aveva avuto la sensazione, mentre decollava, c'è scritto così sul verbale, che un piccolo aereo in fondo gli stesse tagliando la strada. L'ENAV si pronuncia comunque per la sostanziale irrilevanza della questione. Oltrepassato il prolungamento della pista principale, c'è il piazzale nord principale. Qui c'è il toboga, che è il capannone di smistamento dei bagagli. E poi l'aerostazione dei passeggeri, i moli di imbarco e gli uffici, tutti interi con i tetti. Mica come a Bengodi. Il toboga è a 460 metri dalla fine della pista, spostato appena appena di 21 metri verso destra il toboga. Ora è 12, 12 e un quarto, direbbe un rallista. La costruzione di quel toboga è stata autorizzata dal Ministero dei Trasporti, dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile e dal Servizio Aeroporti, tutta roba seria. 6 anni dopo che l'hanno costruito, i tecnici dell'ENAV si accorgono che l'edificio supera di un metro in altezza il piano ostacoli. Non va benissimo, no. E allora ci incollano sopra una manciatina di lucine rosse e se lo tengono così. Meglio. Ah, dietro al toboga? Dietro al toboga c'è un parcheggio per i taxi, il semaforo di Viale Follanini e un distributore di benzina. Nessun altro aeroporto aperto al traffico internazionale è nelle stesse condizioni. Intanto il nostro Cessna comunque prosegue lì, sul Romeo 6, passa prima dell'incrocio con la pista turistica su una segnalazione di attesa, S4, Sierra 4, è importante per la nostra storia. Chi arriva dall'altra parte avrebbe trovato invece S5, Sierra 5. E certo, uno dice S1, S2, S3, S4, S5. No, no, niente S3, perché se lo sono dimenticati. Però hanno messo due S5, uno lì e uno un po' più a nord, due S5, così, per semplificare. Durante il rullaggio il Cessna ha menzionato per 3 volte, nei suoi colloqui con la torre, il nome del raccordo, Romeo 6, per terra. Non c'è nessuna indicazione che li indica sul Romeo 6. Mi hanno detto, ma no, ma c'era un cartello. Ah, però l'hanno tolto. Ah, peccato. Però mi hanno detto, è rimasto il basamento, nell'erba, ma non si vede perché c'è l'erba alta. E poi c'è il radar. Come nell'immaginario, nelle favole, nelle abitudini mentali. In piscina c'è il trampolino, in stazione c'è l'orologio, all'aeroporto c'è il radar. All'aeroporto. All'aeroporto di Linate il radar non c'è. C'è un orologio, non c'è il trampolino e nemmeno il radar di terra. Però c'è un messaggio. Un messaggio con validità stimata fino al 31 dicembre 2001 che informa che il radar ASMI, che è il radar che serve per controllare il movimento degli aerei prima che siano in volo, quindi durante i loro movimenti a terra, è in avaria. Ma Linate è da anni che la società incaricata alla manutenzione del radar lamenta gravi difficoltà a mantenere in efficienza il vecchio apparato che hanno installato a Linate nei primi anni 70. Per carità però, quando funzionava si vedevano gli aerei su radar ASMI a Heathrow, Londra. Altro aeroporto, stesso modello di radar, gli aerei che si muovono sulle piste si vedono così. Altro che se si vedevano, dico, però dopo 20 anni, anzi dopo 30 anni, dico, forse un radar si merita anche di andare in pensione, no? Non c'è mica bisogno, dico, di farselo urlare da culo di gomma. A Linate cominciano ad arrangiarsi come possono. Per tenere in funzione il motorino del radar, dicono che il tecnico manutentore ricorresse a dello spago. I colleghi lo chiamavano il mago. I maligni dicevano che forse era anche un cugino alla lontana di culo di gomma. Nel 95 un responsabile della società scrive all'ENAV per segnalare, scusate, la vetustà del radar. Nel 98 trovare pezzi di ricambio è diventato impossibile. Nel 99 si segnala che l'affidabilità del sistema è ulteriormente peggiorata per effetto del continuo e progressivo degrado. Si scrive a Roma, all'ENAV. Ragazzi, qui la situazione del radar di Linate diventa un po' urgente. Intanto la società ormai smonta il motore dell'antenna, ripararlo, sostituirlo è diventato impossibile. Comincia la magnifica danza dei NOTAM, che sono gli avvisi per il personale interessato alle operazioni di volo, e dicono tutti, radar ASMI out of service, il radar non va, NISVA non va, signori controllori, gli aerei per favore, guardateveli fuori dalla torre. Allineati in situazioni di nebbia, i signori controllori, gli aerei fuori dalla torre, li vedono così. Non andava benissimo. No. In realtà già dal dicembre del 91 l'ENA aveva deciso di dotarsi di un nuovo radar. Il consiglio di amministrazione delega il direttore generale ad avviare una trattativa privata con la FIAR SPA, oggetto l'acquisizione di un primo sistema SMGCS comprensivo di funzioni SMR e tracking labelling. Il radar è un Nova 9000 SMGCS turbo diesel. Roba seria. Mica dico come il radar di Terra di Spago che si tengono già ben godi. Il contratto con la FIAR è concluso in 3 anni, rapidi, nel 1994. Il progetto viene bocciato. Viene bocciato dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile con questi motivi. Sentite. I vantaggi minimi che l'installazione del radar potrebbe offrire sarebbero quasi completamente sostituibili con l'installazione di 2 stop bar. E poi scrivono il notevole impatto psicologico negativo per i piloti derivante dalla presenza di un ulteriore ostacolo di notevoli dimensioni, che era il traliccio dell'antenna del radar. E poi, E poi il fatto che fino ad oggi, è il 17 maggio 1995, non sono state riscontrate inconvenienti particolari, in quanto, lo scrivono loro, il sistema di linate per la movimentazione a terra degli aerei è molto lineare. E poi il fatto che il traliccio sarebbe provvisorio in attesa di ubicare il radar sulla nuova torre, che c'è già nel piano regolatore, e per chiudere in bellezza scrivono il fatto che comunque resta in servizio l'attuale radar ASMI, che è quello che stanno tenendo insieme con lo SPACO. Si presenta il ricorso, bocciato anche il ricorso, l'ENAV insiste. Il 30 agosto 1996 il Consiglio di Amministrazione decide di avviare una negoziazione con la FIAR senza nessuna pubblicazione di bando, partendo da quel contratto che ormai era del 94. La delibera viene presa un mese e 25 giorni dopo l'emanazione del fantastico decreto Burlando, che se ne intendeva lui, di strade, croci, incroci, ponti, dislivelli e anche di contromano, Burlando. Che, preso la lettera, il suo decreto, diceva che a Linate, da lì a pochi giorni, dovevano fare tutti armi e bagagli e trasferirsi a Malpensa. Peccato che il decreto Burlando sia finito sul cartello di cartone insieme ai consigli poco democratici di quello di gomma. L'ENAV intanto trova l'accordo con la FIAR per l'aggiornamento del contratto, lo diceva anche Sgagnabiglietti, che è un radar di terra e spago, dico, non è un'idea brillantissima. Sono passati però 3 anni. Dal contratto originario, bisogna aggiornarlo. Quanto costa l'ammodernamento? FIAR propone 1.879 milioni. Però è una bella botta, L'ENAV chiede la presentazione di una nuova proposta. La FIAR signorilmente fa lo sconto: 678.000 lire. 678.000 lire. Che cosa fa l'amministratore delegato dell'ENAV a questo punto? L'8 maggio del 2001 nomina una commissione di congruità per valutare il prezzo. Poi, dopo, un po' tardi però, un pubblico ministero trova tra le carte di un dirigente della FIAR una scheda economica che sintetizzava un accordo con decorrenza dal 31 dicembre 2001. In parole povere, tradotto alla bengodiana, erano d'accordo di mettersi d'accordo il 1 gennaio del 2002. Per cui mi chiedo, esisterà qualcuno che ha deciso che a Linate l'8 ottobre del 2001 non ci fosse nessun radar di terra? E nemmeno il trampolino. Ci tenevano altro che al radar di terra, anche a Linate. Al mattino a Bengodi c'è una brina che sfarina sulle facce come forme di pazza di pista, il cordone dei passeggeri gocciola sulla costa della salita, quella scusi di qua per l'avioporto, come gocciolano i passeggeri prima di partire? Non si vede in giro da nessun'altra parte, nessuna, mai, diceva Nannocleto sempre, diceva come gocciolano i passeggeri prima di partire, non si vede in giro da nessun'altra parte. Il cielo di Bengodi sono 1.000 cieli sopra un continente. Il treno del professore era arrivato alla stazione treno ferroviaria Drindlon, stazione di Bengodi, da 3 giorni. Il professore e tutta la sua coda di tecnici, apparecchi e aeromobili. 3 giorni, è vero, dico, non sono mica tanti, Per dargli le chiavi del pulsante che ti alza il culo da terra, a te, alla tua famiglia e a tutte le valigie e le credenze di una vita, vero, diceva Nannocleto, non sono mica tanti. Ma non si poteva mica metterlo a scrivere un tema, risolvere XY o farci la prova di pratica al professore. I bengodiani devono portarci il culo sugli aerei, i professori per terra a darci la spinta. E non è mica che uno se la inventa. La corsia propria nell'autovia autostradale della propria vita non ce lo si inventa mica così per ridere il lavoro che ti ritrovi a fare infangato per il resto della vita, o no? No, no, no, lo diceva anche culo di gomma. Ma un po' gli tremava anche a lui, diceva nonno Cleto, gli tremava anche a quello di gomma. E poi che abbiamo badilato a fare, se non ci saliamo sull'apparecchio, cosa passiamo tutta la vita a badilare per cosa? E questo lo pensavano tutti. E poi che paese siamo, se non siamo un paese che ci dà fiducia ai nostri santi professori, che collaudano, firmano, si fotografano, fasciati, tricolorici, non facciamo di queste figure a ben godi, non facciamo gli incivilizzati, sorridete, offrite il cappuccio, spolverate il borotacco dalle spalle del professore, c'è da farci del bene i professori, c'è da farci del bene con i professori, nei paesi civili, anche in tempi di guerra. Questa l'aveva detta il sindaco durante l'omelia della messa della domenica sull'ex sagrato, quello che avevano sciotolato per farci la pista, perché quando hai paura di non sopravviverti alla giustizia, quando hai la paura che ti trema sotto la cintura, si confondono tutti nella nebbia, sindaci, preti nei municipi, preti e sindaci nelle chiese, si confondono tutti nella nebbia della testa dei professori, borotalco e nebbia. Già ben godi, diceva nonno Cleto, 3 giorni di professori, borotalco e nebbia, e un pieno di fasce inaugurazionali. Ci tenevano altro che all'aeroporto di Bengodi, ci tenevano altro che anche gli altri professori, che non avevano lesinato in niente i professori, nelle foto, il borotalco e la nebbia, per il nostro aeroporto di Bengodi, sagrato di fermata e ripartenza, e tutto il resto della manfrina, il solito mezzo tacco sputato dal mare. Al mattino del giorno prima, della prima rincorsa, del primo apparecchio, calma. La calma, quella vuota e rimbombante delle celebrazioni di taglio del nastro. Era tutto il paese che andava a 33 giri. Un replay di responsabili, delegati, deleganti, ingegneri in delega, venditori e campionari, campionari di meccanica in delega, i campionari dei venditori, delegazioni deleganti dei massimi delegatari, tutti. Tutti con la calma, quella vuota rimbombante delle celebrazioni di taglio del nastro, tutti a replay. Per non venire sfocati in foto. Fate il collaudi a 33 giri. Ci tenevano altro che ai tempi dell'avioporto di Bengodi, loro, i professori, in processione Santa Madonnara e gli avvocati dietro, stretti e pronti a smentire e a smentirsi, che non li avevano mai visti gli avvocati già Bengodi, dico erano tempi di guerra, no? Gli avvocati erano tutti a scrivere le lettere d'onorificenza alle madri dei figli caduti in guerra, in giro, erano rari come il salame, poco per il vero salame, poco, avvocati pochi per il vero anche loro, avvocati pochi, che a Bengodi non li avevano mai visti gli avvocati. Ma l'inaugurazione dell'aeroporto li aveva portati tutti lì, un nuovo mondo appena rovesciato nel pentolone di mezzi muri e niente tetti dell'aeroporto di Bengodi. Quello di gomma restava seduto, da lontano, più ingrugnito che seduto. Ah, è mai avuto, è un bel carattere di dialogo, consiglio, opinione, quelle cose lì, quello di gomma, mai avuto. Fin da bambino, e soprattutto per le feste sul suo sagrato del suo avioporto, festeggiano cosa, diceva, cosa, festeggiano cosa, festeggiano senza il mio badile, per cosa potevano portare i miei avvocati un paio di tegole, almeno per il cesso, sti santi professori, mai avuto, il mio carattere di dialogo, consigli, opinioni, o quelle cose lì, mai avuto, fin da bambino, e poi finalmente via con il collaudo per la sicurezza, dei passeggeri dell'avioporto di Bengodi, un collaudo per ogni pezzo fondamentale dell'aeroporto di Bengodi. Taglio! Per primo, in ordine perimetrico di funzionalità, la macchinetta prefettizia del caffè, che dovete sapere di fondamento per un decollo cappuccino. Macchiato caldo, zucchero, carne grassa, bene professori, prova good. Macchinetta del caffè. Taglio! Collaudo tetto, non c'è il tetto, zitto. Collaudo tetto! Comunicazione dispositiva circolare in delega al decreto ratificato 927 mezzo tacco per arrotondare del civile diacono superiore di questa bella monopubblica di Bengodi. Superiore, ci sentite? Sì, qui Bengodi, con l'auto tetto non c'è tetto, non c'è tetto, ma avevo detto io, sì, non c'è tetto. E in che condizioni generali si presenta? Zitto. Buone. Buone. Buone. Buoni, bene, bene, professori, bene, se siete voi, prova, andate, prova, good, dai, sì, tecco collaudato, vai, taglio, collaudo, stoppa, collauda, rabarra, antivasione segreta aziendale per l'ordine supremo degli apripista nazionali, per il volo della vostra sicurezza, ecco, ordinato di sicurezza. sicurezza, tecnici per le mobili, coordinate di sicurezza della strada. Pronti, allora, coordinate di sicurezza. Fatemi pensare, se mi sbaglio, AB291, capo 0723. Cin confermate, confermate le coordinate, confermiamo. Bene, professori, prova a mettere. Guarda che bello, sto. Fondamentale. Collaudo 1 di 1, zona trattoria bar. 10 euro, meno fisso. Ricevuto con fattura, per giovedì gnocchi, quello di pesce, quelle cose per i dirigenti. Zona trattoria bar. Prova, mette, prova, good. Collaudo. Collaudo Toboga. Toboga in collaudo. Qui professore internazionale popolare per la democrazia fantastica del volo, mi senti? Sì, bene, bene. Toboga, il professore, questa è bellissima. Toboga ore 12, 12 e 4, chiedete un rallista. Una grande idea costruire un toboga a fondo pista, eh? Ore 12, sì, mi sono fatto una mano. Ore 12, sì, sì, 30 a fondo pista. Ore 12, toboga in delega con lo dato. A chi delega, ente? Ente, scusi, a chi delega? Ore 12 diceva, sì, ore 12, dritto dentro, con questa grande idea, ma a lei chi delega, ente? Bengodi, ente. Noi diamo le risposte, voi ascoltate le nostre risposte. Noi diamo le risposte, voi non fate domande. Ricevuto, confermato, confermiamo. 12, 12, 4, 4, 4, 12, 12, 12, 12, confermiamo. Bene, professore, prova, dite, prova. Grazie, grazie. Pronti, partenza lì. Con l'auto di terra lo faccio di basso per questo. Muti. Il professore, i tecnici apparecchi aeromobili e il velo di responsabili, deleganti, deleganti, gli ingegneri in delega, i venditori, i campionari, i bananai, i campionari di meccanica in delega, i bananai, dei venditori, delegazioni, deleganti, dei massimi delegatari, sul collaudo di radar di terra, tutti muti. Con il mutismo, quello muto e rimbombante. L'ente era in pausa pranzo, gli altri muti. Sulla costa della salita, quella, scusi, di qua per l'avioporto, c'era una striscia di merli sul filo della luce a forma degli abitanti di Bengodi. Nonocleto mi dice che il collaudo dei professori li aveva inchiodati tutti lì, come i consigli poco democratici di Burlando e di quello di gomma al cartello. Mi dice Nonocleto che anche il vigile, dice Nonocleto che era forte il vigile, che tra rebus e cartelli era uno che ci zampettava veloce. Dico che lo sapevano tutti lì giù all'osteria, tanto che ci faceva anche gli esami di riparazione al paracarro dopo briscola all'osteria, sugli articoli quelli determinati quando era di luna buona, anche sugli articoli quelli un poco meno determinati. Neanche il vigile, mi dice Nonocleto, ci aveva capito un H di tutto questo collaudo e di tutto questo tagliare di professori e di fasce tricolori, che neanche il vigile, che era forte per il vero. Ma erano professori, non si poteva mica metterli a scrivere un tema, risolvere x, y, o farci la prova di pratica ai professori, perché i bengodiani devono portarci il culo sugli aerei, i professori per terra, a darci la spinta. Non è mica che uno se lo inventa, la corsia proprio nell'autovia autostradale del collaudo sbagliato della propria vita. No, no, no, no, no, non ce lo si inventa mica così per ridere. Il professore, che peccato, si è sbagliato per il resto della vita, o no? Sul radar di terra, tutti muti, con il mutismo muto, quello vuoto e rimbombante. L'ente era in pausa pranzo, gli altri muti. Collaudo radar di terra, collaudo, collaudo radar di terra, collaudo, collaudo radar di terra, collaudo, mi sentite? Lo vedi, non lo vedi che non c'è sto radar di terra qui a Bengodi? Che tanto culo di gomma, dico, ci aveva urlato a tutti nelle orecchie che sto radar di terra non ci sentiva. Collaudo radar di terra, collaudo, collaudo radar di terra, collaudo. Ma che c'erano già cartello, muri, sto bavarra, mezzi muri, cinco biloba, toboga, trattoria, bar, niente tetti, ma non ci stava, no, anche sto radar di terra. Collaudo radar di terra, collaudo, collaudo radar di terra, collaudo. E taglialo sto coso, professore. A Bengodi non ce l'abbiamo messo sto coso di terra. Il professore si girò, quello di gomma urlava che a Bengodi non ce l'avevano messo questo coso di terra. Il professore si girò, quello di gomma urlava da quello di gomma, ma il professore non si girò come una persona qualsiasi. No, no, no, no, no, l'aveva detto il sindaco di non urlare ai professori. che altrimenti non ce lo accendevano. Sto benedetto a via porta, l'aveva detto il sindaco, anche il prete che l'avevano detto. Ma quello di gomma urlava, il professore girato, due facce, due nasi, due orologi, quattro piedi, uno davanti all'altro, ci mancava la musica western. Mi dice nonno Cleto. Lei chi è? Chiede il professore. Lei chi è? È l'eco del brotalco del professore. Il costruttore, risponde quello di gomma. Il costruttore dello spazio sacrotale della via porta di Bengodi. Io e la mia mazza, per il vero. Io e la mia mazza, per il vero. Ripete. Ma chi ripete? Che non ce l'aveva quello di gomma, il borotalco, ripetelo. Perché erano tempi di guerra, guerra a sopravvivere al borotalco dei professori. Quasi 3.000 anni di guerra. E allora, ente! Con l'auto rata di terra, con l'auto, ente, fermi tutti, ascolta. Ente, c'è qui il costruttore, con la sua mazza in delega, costruttore, in delega, costruttore, in delega, va bene, costruttore, in delega, delega. Bene, professori, prova un'ente, prova good, dai, via, con l'audato. E prova un'ente, prova good, alla mia porta di Bengodi, con l'audato. E poi? Stop. Stop, mica lo stop, quello di stoppabarra, no? Quella che non si sa nemmeno che cosa serve. La stoppabarra che almeno avesse stoppabarrato i professori, no? No, lo stop, sapete, quello triste. Quello della fine festa. Quando ti rimangono tutte le patatine fritte nei denti. Quando ci sono i bicchieri sporchi di prosecco, quando ti hanno nascosto i noccioli delle olive dentro i vasi di fiori, mi dice nonno Cleto che è finito sto collauto dei professori. Loro erano tutti lì a srotolarsi nella testa la lista, dice loro di Bengodi, ognuno nella sua testa la sua lista delle cose da portarci su sto benedetto aeroporto, da non lasciarci per terra niente, per il primo volo dell'apparecchio di Bengodi. Il vigile era lì a guardare che tutti i professori, i tecnici e gli altri tutti ripartivano, pronti a ripartire. Scusi, posso, professore, per ricordo, per i miei figli? Oh certo, pronti, clic. E poi il vigile a guardare i tecnici, apparecchi aeromobili e i professori a ripartire tutti con la fiducia cieca degli abitanti di Bengodi, a ripartire in treno. In treno. In treno. Perché i bengodiani devono portarci il culo sugli aerei e i professori in treno a darci la spinta. Non è mica che uno se la inventa, no? Il treno dei professori per il resto della propria vita. O no? Professore in treno. E poi il carico. Il carico della Veplana. Mi dice non ho detto che il carico della Veplana era stata una cosa da volarci via. Dalla malinconia. Dentro e fuori il carico della Veplana. Come gocciolano i passeggeri prima di partire. Non si vede in giro da nessun'altra parte. Nessuno. Mai, dicevano i tetti. C'era l'apparecchio in mezzo, bello centrale, sulla punta della lingua della pista, quella di rincorsa di sagrato principale paracarro, a stivare nella stiva, tutto responsabile di stiva con stivali da responsabile di stiva, lustra marmitta che era sul carrello della panettara e puliva le ali dell'apparecchio con pelle di gallina, che ci teneva all'igiene, lustra marmitta. E ci teneva l'igiene delle marmitte e si vede anche delle ali degli apparecchi che ci teneva. Sgagna biglietti sul carrello, invece sopra il carrello della panettara, lì all'ingresso, no, al foyer dell'apparecchio per farci il contagente. Maria faccia d'astria, pronta, lì che distribuiva i giornali. Che era vestita con la gonna della festa. Maria faccia d'astria, ma era brutta da svenirci lo stesso, anche con la gonna della festa. Maria faccia d'astria. E poi il vigile, con il cappello quello bello, quello dei suoi 25 anni di servizio di vigilità, lì pronto a gestire il traffico di uomini, donne e bambini e tutte le valigie con gli ultimi 50 anni di vita dentro, con tutti gli ultimi 50 anni di vita. Dai che siamo pronti. Volo Bengodi 1, siamo pronti? Dai! Allora, pronti con lo spelling, com'era? Volo Bengodi 1, B, come Bigni, E come Elica. N come nuvola, giro tondo ortica, dai noiato, 1 come 1, volo, vengo di 1, forza! Perché vi devo dire che avevano imparato a farlo con i rebus enigmistici, su a Bengodi, lo spelling quello via portuale. Perché anche i professori le avevano detto che a seguire tutte le regole, sapete che ci sono dietro l'avioporto, si rischia che poi si fa un po' di confusione. E ci sono le regole, ma ci sono anche le deleghe e le deroghe. Sì, sì, sì. Allora giù a Bengodi ci facevano lo spelling a via portuale con e le deleghe e le deroghe del postino. Volo Bengodi 1, siamo pronti? Volo Bengodi 1, dai che riproviamo. volo vengo ad uno B come Pignè e come il canne come nuvola circondo picca dai noiato one come uno volo vengo ad uno forza forza dai che partimo forza con quella valigia dai forza il resto di quella valigia no fermala in casa te no attenti quella del finestrino quella valigia del finestrino cosa? Quella della porta e quella del finestrino sì eh? Sì, i cornici sono distesi, va bene. Ma la porta è quella che la comincia da partire, te vedi? Il finestrino comincia dall'ombelico. Dai, fa, mi interessa niente. Deve essere più largo il finestrino. Dai, forza, entra dalla porta. Maria! No, ti la stria. Maria! Maria, ascolta, dagli un giornale paromo, no? Quelli che montano sull'apparecchio. Guarda, mi hai dato tutti i giornali a quello di metti giù il giornale. A casa Simo, un apparecchio si muove di qua. Dai, forza, forza, forza, che partimo, non partimo, forza, Tonino! Tonino, te ho visto! Tonino, smonta sto toro! Dai, ti ho colpito ieri giù al bar, non si può, eravamo d'accordo, non si può carcarli i tori sull'apparecchio, dai, Non mi interessa niente il toro che soffre di solitudine, dai! Smonta sto toro, dai, forza, forza, forza, che poi vedi il scuro, tocca in chi serve tutti i domini, altrimenti, forza, ehi! Stacchemi il putello dalla leva del carello, là in fondo. Stacchemi il putello dalla leva del carello, ehi, dai, capira parsio con la leva, buffa il carello dell'apparecchio, spartaccia l'apparecchio, tocca rifarmi tutto da nuovo, il coraggio tira sull'apparecchio, poi ancora Ernesto alla porta, no, il finestrino, Maria, no, ti, la striga, alzemi quel putello dalla leva del carello, dai, forza che partiamo, forza. No, putello, pagotto, no che non è il freno a mano. Che cosa che è? Freno a mano sugli apparecchi adesso che mette, Che se fermiamo al semaforo rosso, occhio, freno cosa? Spegniamo freno a mano insieme a quel putello della leva del carrello. Forza, forza! Dove andi voi altri do? In bagno? Aspetta, siamo ancora per terra, lei come entra, non si parte, Cosa? Non interessa niente che la ti scappa su un tal vince e decidimi i denti del pissamento sul mio apparecchio. Ciao, via! Forza, forza! Forza, Tony! Uè, Beppe, porca, come ti sei cresciuto, Quanti anni che non ti vedevo, co? Sì? Tutto bene? La Tofiola? La Tonina, la Pinta, la Santa Maria, l'occio di tua mamma, cosa? Cosa che è? E ti aspetti, su un trio a parlare col mio amico Beppe, ti aspetti. Alle anni che non si vedevi, ma cosa? Ti aspetti. Scusami, Beppe, o te vuoi che te ciapo ti la tua valigia e te ligo dentro la roda dell'apparecchio come il radar quello che aveva linate. Beppe, facciamo da qui, dai, c'è la cacca del pestino e una cacca del toro, dopo che spiego, dai, forza, forza, forza, monta questo qua, cosa l'è questo qua, È il sindacalista della scaletta, sarà stato, non guardate, non guardate, dai, forza che partisca, assieme quel putello dalla leva del carrello, forza, dai, forza, partimo o non partimo, guarda qua che quanto te che metti, io salito sulla scaletta, cosa che, Allora, temono dall'adore che ti sei tre, non partimo pino, cosa che è? Te soffri di vertigini sull'apparecchio? Ma siamo ancora per terra, Dio! Già ben treno se te soffri di vertigini, ciao! Ok? Cosa? Te che hai paura anche del treno? Vabbè, dai, forza che te mi stropichi tutti, guarda tutta la gente, la fila che viene da treno, dai, cosa? Ancora, Porca, ma la che paura anche te, assente, ma non è possibile, che cosa l'è? Alla principessa di Costantino Pisello, scattemi il putello dalla leva del carrello! Forza, dai, che partiamo, che non riusciamo più! Dai, siamo pronti, allora partiamo, non partiamo! Tonino, ti ho convinto due volte! Te ho visto, perché hai messo il toro nella capelliera, no? Dai, scassa su sto toro! Capelliera è per i capelli, altrimenti non ho fatto. Dai, forza, partiamo, non partiamo, cosa che è in fondo, parta! Cosa che è? Cosa grida ste invece? Il posto di mio, non è messo le tue, dove si, ma messa, Cosa che è? Guardavo il finestrino, A che espulsa? E l'aveva un po' di più, se l'ha espulsa di... e l'aveva un po' di più, se l'ha finita, ecco. Ah, non l'ha espulsa di vecchio? No, che espulsa lei, Ah, l'ha espulsa di vecchio? Sì, sì, sì. Le bestie sulla parecchia, immagino, dimmi un po' che bestio, nonna, Che bestio è? Cosa è un coccodrillo, un papagallo, un triceratopo, Tonino, porca di quella. Tonino, smonta sto toro che mi spusse cadendo tutto l'apparecchio. Sono il toro, sono la freccia. Dai, basta, adesso partiamo. Allora, partiamo o non partiamo? Forza! Ernesta, sarà il finestrino. Che entra tutta l'aria e mi sconfitta il cappello. Non ricordo, eh? Fino lei, il finestrino, non le apre la porta, il finestrino. Forza, dai che si va pronto. Volo vengo di uno. Volo vengo di uno, vicino siamo pronti. Volo vengo di uno, big come biglietti. E come elica e come nuvola gira tanto ortica. Dai, inviato un come uno. Volo vengo di uno, forza. Ci tenevano altro che all'aviaporto, Gio Bengodi, ci tenevano anche alle deleghe e alle deroghe, Gio Bengodi. Ma per fortuna che è solo una favola. Slot è un termine tecnico che indica un tempo assegnato per un decollo programmato alle 8:16 di lunedì 8 ottobre e fissato lo slot per il volo SK686 per Copenaghen della SAS. La linea era scandinava. L'aereo è un Boeing, è un MD-87. Il comandante si chiama Gustav, sono 36 anni, svedese, 5.842 ore di volo. L'ultimo controllo di professionalità aveva detto standard molto alto. Il copilota è Inlander. Anche lui ha 36 anni, anche lui svedese. Il suo ultimo controllo di professionalità aveva detto very good. Stava diventando istruttore nel centro di addestramento della SAS. La mattina dell'8 ottobre l'imbarco dei 104 passeggeri finisce con 5 minuti di ritardo. Visibilità generale 50 metri. Decollo e atterraggio solo con l'ausilio strumentale. Torre, buongiorno, qui Scandinavian 686, alla piazzala 13 siamo completamente pronti. Come informazione abbiamo Alfa. Sì, qui Torre 686, buongiorno, messa in moto approvata in accordo allo slot, autorizzato a destinazione. 13 minuti dopo. Dai, che si parte. Torre, qui Scandinavia 686, chiediamo il rullaggio dalla piazzola di parcheggio 13, Scandinavia 686, rullate alla posizione di attesa categoria 3 e per favore richiamatemi entrando nella via di rullaggio principale. Il Boeing scandinavo attraversa tutto il piazzale principale da nord verso sud. In quel momento il controllore sta parlando con un altro aereo che invece è su. Su R5, quindi deve sapere se il Boeing ha già liberato il piazzale. Qui Torre, Scandinavia 686, la vostra posizione, prego. Scandinavia 686. Il controllore chiama l'equipaggio più volte nell'arco di pochi secondi. Ad un certo punto il pilota risponde, ma si dimentica di attivare il pulsante della comunicazione. Il controllore insiste. Scandinavia 686. Sì, adesso Torre. Stiamo entrando adesso sulla via di rullaggio principale, Scandinavia 686. Poi il pilota ha un commento stizzito, dice, pretendeva che dicessi che eravamo sulla via di rullaggio e non c'è nulla che ce lo indica. Sono le 7:58 minuti e 23 secondi, un altro aereo, dall'altra parte dell'aeroporto, chiede l'autorizzazione alla messa in moto. È il Cessna, Delta India Eco Victor X-Ray, ha imbarcato due passeggeri. Un rappresentante della Cessna, che deve riuscire a venderlo a tutti i costi, sto benedetto aereo, e un imprenditore interessato al Cessna, che bisogna farglielo comprare a tutti i costi l'aereo. La nebbia, le autorizzazioni mancanti, no, niente nebbia. Nelle trattative commerciali, quelle serie, non scende mai la nebbia. Linate, buongiorno, qui Delta India, ecco Victor X-Ray, chiediamo la messa in moto con informazione gialla. Delta Indio, per favore parlate più forte, siete autorizzati a destinazione, via saranno 5 Alfa. 7:59 minuti, 32 secondi. Il controllore di terra richiama intanto dall'altra parte il Boeing Scandinavo e dice, passando alla stazione dei vigili del fuoco chiamate la torre, sulla frequenza 118.1, arrivederci. Da questo momento in poi il Cessna e l'aereo di linea Scandinavo comunicano con la torre su due frequenze differenti. Alle 8 minuto e 24 secondi il pilota del Boeing chiede alla torre qual è il suo ordine nella sequenza dei decolli. Gli viene assegnato il numero 4, tre decolli prima di lui. Dai, che si parte. Intanto dall'altra parte il Cessna richiama la torre. Buongiorno, Delta India, ecco Victor X-Ray, chiamiamo dall'aviazione generale, siamo pronti per il rullaggio. Sì, Delta India qui torre, stazione che chiama, siete incomprensibili. E qui c'è da dire una cosa. Quando ho cominciato a scrivere, a pensare a questo spettacolo, di tutto ero incerto, tranne che di una cosa. Dico che nella torre di controllo, che è un punto così fondamentale di un aeroporto, sicuramente ci sarà un luogo tecnicamente avanzato, giusto, assolutamente in sicurezza. E infatti mi sbagliavo. Perché all'INATE, dopo ottobre del 2001, i controllori parlavano con gli aerei con delle casse come questa. Per intenderci in parole povere, come direbbero Giovan Godi, sono le casse che trovate con il computer quando andate al discount, avete presente? Tutte erano incassate sulla plancia e tutte insieme facevano un rumore più o meno così. Lo potete ascoltare nella registrazione di quel giorno. Voci, telefonate dentro, atterraggi, decolli fuori, non andava benissimo, no, cari i nostri professori. Delta India, confermate, siete pronti per il rullaggio? Sì, qui Delta India, affermativo. Poi il controllore di terra comunica al Cessna le istruzioni per il rullaggio. Dice: Delta Victor, rullate a nord via Romeo 5 e richiamatemi alla stop bar del prolungamento della pista principale. Roger, via Romeo 5 richiamerò prima di raggiungere la pista principale. Nell'ordine del controllore dice di prendere su il Romeo 5 verso nord, no? E di chiamare lì, prima del prolungamento della pista principale, dove c'è l'unica stop bar all'INATE che funziona, ma il prolungamento della pista principale, che è nell'informazione del controllore, e la pista principale all'INATE sono due posti completamente differenti, una è a nord, l'altra invece è a sud, e per raggiungere la pista principale, il Cessna, deve percorrere tutto il Romeo 5, superare la stop bar, attraversare tutto il piazzale nord principale, anche lui per semplificare, percorrere in tutta la sua lunghezza la via di rullaggio principale, anche lei per semplificare, e ottenere almeno 5 successive autorizzazioni, dire vado a nord e richiamo prima della pista principale, è un errore. Ma il controllore è tranquillo, ha detto Romeo 5 e ha sentito Romeo 5. Il Cessna si muove dal piazzale ovest, sono le 8 e 6 minuti, segue la linea guida di rullaggio, quella tracciata sul piazzale, dipinta con della vernice gialla, ad un certo punto c'è una biforcazione. A sinistra si va per Romeo 5, a destra invece si va per il Romeo 6. La prima luce del Romeo 5 è a 350 metri, è assolutamente invisibile nella nebbia. Quella di Romeo 6 invece a 80 metri. Le scritte intatto per terra sono deteriorate, sono fuori dagli standard per colore, per forma e per proporzione. E in più le hanno disegnate oblique. Al bivio il Cessna piega a destra invece che a sinistra. È diretto veramente alla pista principale. Alle 8 minuti e 23 secondi il controllore viene richiamato dal Cessna. Delta India, ecco Victor X-Ray, torre, ci stiamo avvicinando a Sierra 4, e quella scritta S4 su cui il Cessna era passato dopo l'atterraggio, il pilota la vede capovolta rispetto al suo senso di marcia e lo comunica al controllore. Qui torre Delta India, confermate la vostra posizione? Sì, siamo in avvicinamento alla pista, Sierra 4, e dà un'informazione inquietante, mi sto avvicinando alla pista. Per il controllore invece il Cessna era su, da tutt'altra parte, no, sul Romeo 5, e comunque le carte a disposizione non servivano. E non sarebbero servite perché nessun professore si è degnato di mettere S4, i due S5, S6 e nessun S3 sulle carte. Il traffico a terra dell'aeroporto di Linate, l'hanno scritto loro, è molto lineare. Gli apparecchi se le disegnano da soli, in cielo e per terra. Le strade, lo diceva anche quello di gomma. La cartina legata al resoconto della riunione in cui la direzione di circoscrizione aeroportuale, l'ENAV, l'ASEA, l'ATA, tutta roba seria, decidono di far emergere la necessità di S5 e S4 in un armadio, al primo piano. È lì che la troveranno dopo, un po' tardi. I controllori giurano per iscritto di ignorare l'esistenza di quei segnali, sapevano, dicono, della necessità di quei segnali, dell'ipotesi di farli, dicono ci fosse un radar di terra non avremmo bisogno di cartine aggiornate, un po' tardi però anche loro, lo dicono. Dalla torre il controllore di terra richiama il Cessna. Qui torre Delta Victor X-Ray, Roger, mantenete la stop bar, vi richiamerò. Sì, Roger, mantengo la posizione, poi? Poi 17 secondi di silenzio. Borotalco, nebbia, silenzio e nessun radar di terra. Quando il controllore sente che intanto l'altro aereo è arrivato in prossimità della via di rullaggio principale, passa ad autorizzare il prossimo movimento del Cessna, che per lui, nella sua testa, era nord, sul Romeo 5. Qui torre Delta Victor, continuate il vostro rullaggio sul piazzale principale. Seguite la linea Alfa. Roger, continuiamo il rullaggio sul piazzale principale, linea Alfa. Corretto. E per favore richiamatemi entrando nella via di rullaggio principale. È un dialogo tra sordi, nebbia, professori e sordi. Il controllore parla di piazzale principale. Il Cessna prima aveva detto di essere diretto sulla via principale, invece adesso parla di piazzale principale. Ma è un rullaggio o un piazzale? Ma è una via o un piazzale con Alfa la torre? Intendo una via di rullaggio sul piazzale nord principale, invece Alfa sulle cartine, che erano diverse a bordo del Cessna, è una linea invece della via di rullaggio principale. Il traffico a terra di Linate, l'hanno scritto loro, è molto lineare. Il Boeing intanto comincia il rullaggio, sono le 8, 9 minuti e 28 secondi. Scandinavia 786, qui torre, autorizzata al decollo, pista 36, vento calmo. Riportate rullando quando in volo selezionate ident. Il Cessna oltrepassa la stop bar sul Romeo 6, che ha raggiunto nel frattempo, nella sua testa e nella nebbia, l'autorizzazione. Nella testa e nella nebbia il controllore ce l'ha da un'altra parte, testa e nebbia, nebbia nelle teste, borotalco, professori e stop bar che non stoppano. La barra a luci rosse unidirezionali accesa, è sempre accesa, la centerline verde illuminata, come sempre, rosso e verde insieme, come i semafori a Bengodi, no? Molto lineare il Cessna, attraversa la pista principale, comincia a imboccare il Romeo 2 e in quel momento arriva il Boeing. Bengodi. Otto torri di un anno qualsiasi. Pista dissagrata di rincorsa principale. Avete mai provato a rullare, dico, nella nebbia? Nella nebbia che martella in testa, nella nebbia che rincula in coda. Rullare per terra per niente, da nessuna parte, per una parte nessuna, Bengodi. Non si respira mentre si rulla, Bengodi c'è puzza e nebbia mentre si rulla, rullando al motore, clacco cinghia, gomma polvere, non c'è qualcuno in giro che abbia una rete, un coltello per questa nebbia, non c'è qualcuno che lo veda, questo missile vomitato nel bianco, il comandante è pazzo, o avanza nel peccato, rulla troppo in discesa, rullaggio giù a Bengodi, non c'è qualcuno che lo senta, il giro di questa giostra che sa di nastro trasportatore di tutti i giorni prima, Bengodi non si respira mentre si rulla, rullando motore, clacco cinghia, gomma polvere, non c'è qualcuno che appoggi l'orecchio sul binario di questa rincorsa squincia, li vedete? Rotolare gli angeli per la discesa di Bengodi, professori, li sentite sanguinare i bulloni, vi dobbiamo decollare nelle orecchie per dirvi che si rulla squinci due Bengodi, dico nella rendia, nella nebbia che martella in testa, nella nebbia che rincula in coda, il motore, clacco cinghia, gomma polvere, è un'arte incapitalita, è un paese di esistenza, è una biblioteca che brucia, è un mare che si cristallizza, è un aereo, penso, prendo per lì. La radio del Boeing registra un'espressione di sorpresa del pilota. All'ultimo momento, nella nebbia, aveva visto sbucare il Cessna da R6. Thank you. Sì, Torre, ciao, ascoltami, è qui l'ufficio traffico. Abbiamo sentito una serie di colpi, come di un motore che stesse... Sì, guarda, li abbiamo sentiti anche noi. Non abbiamo capito che cos'è. No, qui adesso però è smesso tutto, eh. No, qui invece sembrava... Guarda, qui sembrava come qualcuno che salisse pesantemente sulle scale, cioè non abbiamo... No, guarda, qui sembrava un motore che perdeva dei colpi, ecco, non lo so. Era come se qualcuno sbattesse la testa di un nostro capoturno contro un vetro. Il rumore era simile a quello di vuoto, capito? Sai, quel vuoto rimbombante, esatto. Cioè, quello poteva essere una cosa tutto sommato, infatti, utile. Comunque, non lo so. Comunque, niente di anomalo, a quanto pare. Meglio così, ciao. Grazie. Scandinavia 686, Linate. Rispondete. Scandinavia 686. Un minuto e mezzo dopo l'incidente, il controllo di torre telefona al centro di controllo regionale. Scusa, senti, sì. Mi riporti? Se lo Scandinavo vi ha chiamato, Scandinavo quale? 686, decollo. 686, Scandinavo, non lo vedo sul radar. Neanche noi. È scomparso, non ci risponde più. Veramente, porco Giuda, non lo so. Non ce l'ha neanche Milano. Dai, ti faccio sapere, grazie. Anche all'infermeria, che lì è attaccata al toboga, non si accorgono di nulla per due lunghissimi minuti. Intanto un poliziotto, un finanziere di guardia al varco 5, che è un passaggio di servizio, vicino al deposito bagagli, sentono dei colpi lontani, poi un boato vicino, vedono un chiarore forte sopra le loro teste, pensano a una bomba, all'attacco delle Torri Gemelle di pochissimi giorni prima, poi vedono un operaio della SEA che esce completamente avvolto dalle fiamme. È Pasquale Padovano, il finanziere, gli spegne le fiamme addosso. Il poliziotto chiama la centrale operativa, allerta i pompieri, dice c'è un grosso incendio al deposito bagagli. Sono le 8 e 12 minuti. Due mezzi dei pompieri escono dalla caserma, percorrono la strada perimetrale e entrano nel piazzale principale. Due minuti dopo lo schianto, il pilota del volo AZ2023 chiama la torre, ground 2023, avanti. Senti, noi siamo qui sulla 15, dietro di noi abbiamo sentito un paio di minuti fa tre colpi in sequenza. La rampista riferisce di aver dietro di noi, nella parte terminale della pista, una scia rossa di fuoco, un qualcosa verso l'antenna del localizzatore. Dai, grazie, riferiamo. Delta India, Eco, Victor X-Ray, rispondete, qui torre. Il centro regionale intanto richiama la torre. Pronto, pronto, qualche novità? Nessuna. Per adesso nessuna, blocca la 2012, è stato riportato qualcosa a terra. Tre minuti dopo chiamano dall'ufficio informazioni. Pronto, ciao, ciao, ma che cosa è successo? Non lo so, guarda, mi ha sentito dei rumori, adesso lo Scandinavo non risponde più, ti richiamo dopo, dai. Ciao, chiamano dalla direzione aeroportuale. Dimmi, è scattato l'allarme, sì. Ah, abbiamo lo Scandinavo, non lo troviamo più. Insomma, con la nebbia, senza radar, è stato riportato a terra un aereo, ha detto che ha visto una scia di fuoco, per noi doveva essere decollato e non lo vediamo più. Scandinavo, sì, Scandinavo, in decollo, autorizzato al decollo, per noi era decollato e non l'abbiamo più visto. Abbiamo sentito dei botti prima, ma pensavamo che era qualcosa, dai, ok. Arriva una telefonata dal flusso, che è l'ufficio di collegamento tra centro di controllo regionale ed Eurocontrol, l'ente europeo per la sicurezza. Pronto, sì. Sono il caposala, mi hanno avvertito di un problema. Sì, guarda, sembra che lo Scandinavo appena decollato è sparito. Un aereo sul piazzale ha riportato una scia di fuoco, non risponde più da nessuna parte. E quindi non lo so, abbiamo schiacciato l'allarme, abbiamo avvisato tutto. Ai pompieri intanto arriva una telefonata di un maresciallo della Guardia di Finanza che dice non è un incendio, guardate che si tratta di un aereo, al toboga, vicino al varco. Tre minuti dopo l'incidente, la sala operativa dei pompieri chiama tutti i mezzi, si chiamano Victor in gergo, dice a tutti i Victor, recarsi in prossimità del varco 5, a tutti i Victor. La torre intanto blocca due aerei che sono sul Romeo 5, li fa tornare indietro, poi chiama anche lei, la centrale dei pompieri, dice avete sentito l'allarme? Sì, sì, torre, sì, abbiamo già mandato, dai, ok, sono già partiti. È un dialogo tra sordi. Il controllore si riferisce all'allarme lanciato dalla torre, il centralino a quello lanciato dalla polizia, il controllore non sa dove sia in quel momento il Boeing, i pompieri sì e ci stanno già andando, nessuno dei due fa domanda all'altro, nessuno dei due dà informazioni all'altro. Passano quattro minuti, dopo l'incidente richiama il centro di controllo regionale. Pronto? Sì, mi fai sapere appena puoi, guarda, fermi, lo Scandinavo non c'è più, quindi per noi è caduto, insomma. Sì, ho capito, ma in pista non c'è, mi confermi? In pista non lo sappiamo. Abbiamo i lubi che è allineato, poi tutta la pista non la vediamo. Qui siamo nella nebbia, adesso io... Dai, ho capito, fammi sapere, i lubi era l'aereo che era in coda dietro al Boeing Scandinavo, che avrebbe dovuto decollare dopo di lui. Gli viene chiesto di liberare la pista. Qui torre, i lubi dovete liberare, sul Romeo 4. Dai, vi porteremo pista libera. Conferma Romeo 1 fino in fondo, può ripetere, non abbiamo capito, l'importante è che ci liberate la pista. Dai, torre, se volete possiamo uscire qui dal punto di attesa, usciamo di qui, dai, mantenete la baia. L'aereo percorre un tratto della pista principale e poi si ferma in una piazzola di sosta laterale, sono passati 5 minuti. Un altro controllore chiede ai vigili del fuoco di entrare in pista e di fare un riporto, dice, Victor è entrato in pista, da questo momento la pista è libera. Potete entrare in pista, fateci un riporto per tutta la sua lunghezza, mi manca un aereo che dovrebbe essere decollato Però a questo punto non c'è più. Riportateci che cosa trovate sulla pista. Volendo puntualizzare, non è vero che la pista era libera, perché c'era i lupi in una piazzola di sosta, sì, in una piazzola laterale della pista. Volendo puntualizzare, la sala operativa dei pompieri ripete la comunicazione a tutti i mezzi, però senza la richiesta del controllore. Dice: potete, se volete, usare anche la pista. Adesso è chiusa perché? Perché il centralinista dei vigili del fuoco non capisce la necessità di fare un riporto sulla pista, perché a differenza della torre loro sanno già dov'è l'aereo, ci sono già andati, stanno già spegnendo l'incendio, anzi sanno già dov'è un aereo, perché non sanno assolutamente che intanto in torre se ne stava cercando anche un altro più piccolino, tant'è che addirittura con un giro di telefonate stavano cercando di contattarli sul cellulare. In torre hanno la certezza di dove sia lo scandino. Vale 8, 15 minuti e 37 secondi, arriva una telefonata dalla direzione aeroportuale. Dimmi, ascolta, torre, è entrato nel toboga l'aeroplano. È entrato nel toboga, sì. Dai, glielo diciamo ai vigili, fondo pista, dai, lo comunichiamo ai vigili del fuoco, d'accordo. Contemporaneamente a questa discussione, un altro controllore che stava ascoltando la conversazione gira così l'informazione per radio ai vigili del fuoco. Dice: ok, per i vigili è entrato anche il toboga in pista. E la centrale operativa dei vigili del fuoco gli risponde: ricevuto. Dopo, il controllore, che era da più di 20 anni in servizio all'INATE, dirà di avere pensato che il toboga fosse un mezzo della SEA, così avvisava i pompieri di stare attenti. Meno di 20 secondi dopo, lo stesso controllore telefona alla direzione aeroportuale: pronti, sì, senti, ma mi dici di preciso cos'è il toboga? Perché qui c'è il toboga, praticamente dove c'è il fondo pista, di fianco all'infermeria, c'è il carico scarico, sì, infermeria, magazzini, praticamente l'aereo è andato dritto. La conferma che è il Boeing, l'aereo dentro il toboga, arriva 5 minuti e 47 secondi dopo l'incidente. Dal medico del pronto soccorso aeroportuale, che dice: medico a torre, è un aereo Scandinavian Airlines, così. Sono passati 7 minuti dal momento dell'incidente, da torre manda i vigili del fuoco sul posto, ignorando che sono già lì. Ok Victor, qui torre, portatevi di fianco all'infermeria, è stato riportato un aereo che è uscito fuori pista vicino all'infermeria. Recatevi immediatamente di fianco all'infermeria. Intanto il giro di telefonate non porta nessuna soluzione, nessuno risponde degli occupanti del Cessna. Chiamano dagli uffici della SAS, la compagnia aerea scandinava. Sì, senti, mi è arrivata una brutta notizia, sì, lo so. Guarda, c'è un volo SAS, è scomparso dal radar, era stato autorizzato al decollo ma non l'abbiamo più visto, è stato riportato in volo, adesso ci dicono che c'è un aereo incidentato. Sì, lo vediamo da qui, vediamo le fiamme. Eh sì, probabilmente ci hanno detto che è quello, è uscito fuori, non sappiamo, anche perché noi qui siamo senza radar, non sappiamo niente, dalla torre non si vede a più di 100 metri. 8 minuti e mezzo dopo l'incidente, in torre si comincia a sospettare che anche il Cessna sia stato coinvolto nello schianto. 11 minuti dopo, dalla torre telefonano alla centrale dei pompieri, non risponde nessuno. Che cacchio, non mi risponde nessun pompiere, qualcuno deve avere pure contatti con la torre. Alle 8, 21 minuti e 34 secondi richiamano dal centro regionale: scusatemi, per caso sapete quante ore di ritardo ci possiamo aspettare per l'uso della pista? Non abbiamo la più pallida idea. Passa un minuto, richiama il centro regionale. Sì, però mi confermate, l'aereo che ha preso fuoco, dico torre, è sulla pista? Non lo sappiamo se è sulla pista, non sappiamo se si è scontrato, non sappiamo niente. C'è una nebbia che si vede al massimo nel airwine parcheggiato sotto di me. Intanto un controllore riprova con i pompieri. Così 14 minuti dopo l'incidente, all'aereo Ilubi, quello che era parcheggiato in una piazzola di sosta, gli viene chiesto di ritornare sul piazzale. 15 minuti dopo l'incidente, la torre chiama l'ATA per sapere se il Cessna è tornato, e all'ATA gli dicono: guarda, manca l'appello anche questo, non vorrei che avesse preso questo nell'uscita. Perché? Perché per la torre il Cessna era su, a nord, sul Romeo 5, per cui non poteva essere successo nient'altro che, sbagliando il decollo, il Boeing l'avesse preso lì, a fondo pista. Sono passati 19 minuti. Il dubbio rimane. Senti, scusa, volevamo sapere, lì, ma all'appello ci manca un aereo privato, scusate, Vigili del Fuoco, un Cessna 525, volevamo sapere, ma voi nel luogo dello spegnimento vedete un aereo o due aerei? La domanda resta senza risposta. Intanto Ilubi è arrivato all'incrocio tra la pista e il Romeo 6, comunica qualcosa di importante alla torre, qualcosa che dalla torre sembrano non cogliere nessuno. Subito: ho di fronte il Romeo 6, torre, qui Ilubi, usciamo a destra perché sul Romeo 6 c'è del fuoco in pista, ricevuto. Mantenete il Romeo 2, copiato, mantiene, sul Romeo 2 c'è della pista con del fuoco, torre, penso roba che brucia, derottami in fuoco, ricevuto. 21 minuti dopo l'incidente richiamano dall'ufficio flusso, senti, Non è che voglio rompervi le balle, ma siccome da Roma mi stanno tartassando, avete qualche informazione in più, no? Qualche informazione relativa a cosa? Senti, al momento attuale non c'è nessuna nuova. C'è stato questo incidente, l'aeroporto è chiuso e non si possono fare previsioni, ma la gravità, non ho capito. La gravità delle previsioni non ce ne frega niente, abbiamo bloccato tutto da Roma, vogliono sapere. Ma la gravità della cosa, voi la sapete? La gravità no, non è stabilibile al momento attuale. Ma i pompieri saranno lì? Sì, i pompieri sono lì. Ma parleranno con voi? Sì, lo so, ma i pompieri stanno spegnendo, cioè ci sono delle fiamme, quindi stanno spegnendo. Passa un minuto e arriva intanto una telefonata dagli uffici ATA. Senti, sì, Torre, non è tornato qui l'aereo piccolino, Delta India. No, non è tornato. Scusa, Torre, ma mi può dire però, Torre, all'attraversamento del Romeo 6 c'è qualcosa? Perché lo chiede? Perché dal piazzale Ovest due tecnici dell'ATA sono appena partiti a piedi e in bicicletta per andare a vedere che cosa c'era lì sul Romeo 6, dopo che avevano sentito la comunicazione che c'erano dei rottami in pista. Qualcuno in torre pensa che forse le cose sono andate diversamente da quello che credevano. Sono le 8:33 minuti, 14 secondi, la torre telefona ai vigili del fuoco. Sì, Torre, sentito, ho bisogno di parlare con una macchina vostra, ci manca un aereo piccolino. Un aereo privato, qualcuno ha riportato dei rottami in pista, quindi volevo sapere, i vigili sono entrati in pista oppure no? No, guarda Torre, i vigili sono andati direttamente su. Sì, ma noi vi abbiamo detto, noi abbiamo preso la perimetrale, sì, ma vi abbiamo autorizzato a entrare in pista? Non lo so, la nebbia non l'hanno visto. Loro si sono andati subito al varco 5, dai, mi faccia chiamare in frequenza. 24 minuti dall'incidente, la torre chiama via radio i pompieri, non risponde nessuno. Le 8:36 minuti e 50 secondi, una macchina, in gergo si era fatta chiamare Delta 2, con dei tecnici che si erano offerti volontari di andare a vedere che cosa c'è lì sul Romeo 6, chiama la torre. Oddio, Torre, Torre da Delta 2, c'è un aereo in pista, cioè quello che rimane di un aereo. Torre da Delta 2, avanti Delta 2 con calma, Torre, all'altezza del Romeo 6 c'è un velivolo che sta bruciando. Sono passati 26 minuti e 29 secondi dal momento della collisione. Uno dei funzionari dell'ufficio traffico ricorderà di aver trovato sul posto due sconosciuti, già lì, in bicicletta, in lacrime. Probabilmente due operai dell'ATA. Milano, dopo l'8 ottobre 2001. Buongiorno Italia. Questa lettera non è assolutamente una cosa teatrale, anzi, sicuramente anche fuori tempo, per i tempi teatrali, e non ha nessuna drammaturgia o firma autorevole. Chi sono? Sono il fratello, la madre, la moglie o uno dei figli di una delle vittime coinvolte nell'immane tragedia di Linate. E con la presente non voglio fare un atto di denuncia, ma una cronistoria di quello che hanno vissuto le famiglie delle altre vittime. Quella mattina, alle 8:10, io stavo facendo colazione e si consumava questa tragedia. Io stavo bevendo il tè e mio fratello stava morendo. Tra le notizie della guerra sentiamo un incidente a Linate, ci possono essere dei feriti. Mio fratello doveva partire da Linate o da Malpensa. Ieri cosa ci aveva detto? Non ce lo ricordiamo. Mia moglie, finalmente, perché qualche volta succede che i secondi durano un'eternità, riesce a sentire l'aeroporto. Chiede del volo SAS per Copenaghen delle 7:35. La risposta è: signora, il volo della SAS è partito regolarmente. Ciao papino. Il 5 ottobre ci hai detto l'8 ottobre devo andare in Svezia per lavoro, ma non ne ho voglia. Alla domenica avevi mal di gola, continuavi a ripetere: domani non voglio partire, chiamo il capo, gli dico che sto male, mi fa male la gola. Sembrava sentissi il tuo appuntamento con la morte. Non ti ho mai visto così. E poi quelle frasi: stai attenta alla mamma, prenditi cura di lei. Se vuoi stare un po' a casa dall'università con la mamma, fallo. Tutte frasi che non avevano senso, ma che dopo nemmeno 24 ore sono diventate chiarissime. Ma come facevi a saperlo? E perché sei partito? Osvaldo, sono passati 2 anni da quella mattina in cui ci siamo salutati. Mi ricordo come se fosse oggi. Tu eri al cancello con la valigia pronto per uscire. Io sulla porta di casa ti ho detto: Osvaldo, c'è nebbia, non hai paura. E tu, con il tuo solito fare ironico, mi hai risposto: stai tranquilla, questa qua, questa non è nebbia. E mi hai salutato, hai salutato Harlem, gli hai detto: mi raccomando Harlem, fai la guardia e cura le mie donne, ci vediamo tra 4 giorni. Di giorni ne sono passati tanti e tu non sei più tornata. I miei amici mi telefonano: Giorgio, l'aereo coinvolto è quello, ma qui si parla di feriti. Si tratta di uno scontro con un aereo privato. I feriti sono quelli a bordo dell'aereo piccolo. Telefona mia moglie, sono quasi arrivato. Si parla già dei primi morti, delle persone a bordo del velivolo piccolo. Arrivo. Mia moglie, mia mamma, mia cognata, la moglie del mio unico fratello sono lì, accanto alla macchina. Corriamo verso Linate, ci sembra di non arrivare mai. Sono le 9:20. Arriviamo davanti all'aeroporto e un vigile urbano ci vieta l'accesso. Senta, mio fratello è a bordo dell'aereo della SAS e lui da qui non si passa. Andate verso lo scalo merci. Proviamo dall'ingresso dello scalo merci, la scena si ripete: da qui non si passa. Parcheggio la macchina e andiamo ansiosi a piedi verso l'aeroporto. Arriviamo al check-in della SAS e non troviamo nessuno. Poi arriviamo in un'altra sala, iniziamo a chiedere informazioni. Le hostess non sanno, non ci dicono nulla. Diamo i dati di mio fratello e loro ci dicono: vi avvisiamo appena sappiamo qualcosa. Iniziano ad arrivare i familiari delle altre vittime. Passano i secondi, i minuti, le ore, non si sa nulla. Accendo il televisore della sala e sento: non parliamo più di un incidente a Linate, ma del disastro di Linate. E fanno vedere le prime immagini. Continuo a chiedere informazioni alle hostess. È possibile che siamo a Linate, sul posto? Siamo il fratello, la madre, la sorella, i figli e le mogli di quelle persone a bordo dell'aereo della SAS. E dobbiamo essere informati dalla televisione. In risposta: i giornalisti sono delle iene, inventano, amplificano, anzi consigliamo di spegnere la televisione. Arriva il direttore dell'aeroporto. Silenzio, silenzio, ci diciamo: sentiamo le notizie. E lui: signori, l'incidente è avvenuto in questo modo. L'aereo ha colpito un aereo privato, dopodiché è andato a sbattere contro il deposito bagagli. Al momento abbiamo estratto le prime vittime. Risultano essere morte per trauma e ciò ci fa ben sperare di trovare molti in vita. Io alzo il braccio e gli chiedo: ma scusi, ma l'aereo ha preso fuoco? La sua risposta: assolutamente no. Bene, dico, almeno questo. Ma perché era in ritardo? Era per la nebbia? La sua risposta: no, non c'era nebbia. Ma ripensandoci mi chiedo come si è permesso di dare speranza a così tante persone, tante mogli, mamme, padri, fratelli ed amici di persone già morte. Come si è permesso? Come si può fare qualcosa del genere? Ritorna il direttore. Allora, signore, abbiamo allestito dei pullman navetta per l'hangar militare, in modo da trasferirvi tutti lì e darvi informazioni. Arriviamo al circolo dell'aviazione militare, entriamo, qui c'è il medico legale in mezzo a noi. E ci chiede: signori, avete portato uno spazzolino, una radiografia? Preferibilmente dei denti. Non capiamo, nessuno ci ha detto nulla. Chiediamo: ma scusi, ma quanti sono i feriti? E lui: ma signori, ma sono tutti morti. Sono crollato, i nervi mi sono saltati. Possibile che nessuno, ripeto, nessuno ci ha detto nulla? Apprendiamo della morte dei nostri cari in questo modo. Avete uno spazzolino, una radiografia. Nel frattempo arriva il secondo pullman dei parenti e la scena si ripete: spazzolino, radiografia, urla e lacrime. Il direttore dell'aeroporto, quando ancora noi non sapevamo nulla, quel giorno ci disse: stiamo estraendo l'estraibile. Peccato che tra l'estraibile ci fosse anche mio figlio. In via Ponzio ci sono diversi furgoni, scaricano dei contenitori ermetici, piccolissimi. Lì dentro ci sono i fratelli, i figli, i mariti e le mogli. Io ogni notte passo ore e ore a pensare, a immaginare cosa hanno provato i passeggeri. Quante volte anch'io mi sono seduto nelle ultime file a sentire il rumore dei motori aumentare, la spinta che si fa fortissima. A un certo punto non si sentono più le ruote, per un attimo schiacciati nel sedile, in quell'attimo sicuramente un rumore fortissimo, poi la punta che si abbassa, urla, grida. 15 secondi, l'aereo striscia sulle terre, striscia sulla pista e si abbatte sull'hangar. È trascorso un anno di attesa. Non ho vissuto la mia vita. I giorni sono trascorsi senza rendermene conto. Mi ritrovo a guardare mia figlia cresciuta. E io non sono riuscita in questo tempo ad essere sufficientemente madre e tantomeno padre. Lei sa che soffro. Lei sa che le voglio un bene dell'anima e anche lei soffre. Soffre quando vede le mie lacrime da tanto tempo trattenute e respinte, perché dovevo essere forte. forte per Marco, forte per lei. Il suggerimento della psicologa, si sincera con lei. Non deve perdere la fiducia in quello che le dici. E così alla domanda: mamma, Francesca mi ha detto che il mio papà è morto. Io le ho detto che non è vero. Vero, mamma? Mi aveva detto che stava via solo 3 giorni. Fammi telefonare. Voglio il mio papà. Il mio papà non è morto. È andato in cielo. Le persone vecchie muoiono. Il mio papà è giovane. Lorenzo, caro, abbiamo camminato con te, proteggendoti, poi sei stato bravissimo a trovare la tua strada. E l'8 ottobre, troppo presto, sei entrato nella luce, vero? Ora pensiamo al tuo dolce sorriso e l'ombra di un faccio. Parliamo di te. Sono passati 7 anni. Quando pensate di ritornare? Credevamo di invecchiare insieme a voi e guardare i nostri figli. Gli aerei volano malvolentieri, senza di voi. Firmate i vostri padri, le vostre madri, i vostri figli, le vostre mogli. Fuori c'era quel cartello, no? Quel cartello di cartone, quello inchiodato sul cartone delle pizze. Sopra la torre c'era uno shelter, che è una tazzona. Dentro quella tazzona, l'8 ottobre del 2001, c'era un nuovo radar di terra. Radar di terra. Zucchero, canna, grazie. Dentro lo shelter c'è un monitor, monitor di controllo, roba alla serie. Dentro il monitor c'è un segnale, c'era un segnale grezzo, per carità, grezzo. Sopra la torre c'è un dubbio. Il radar di terra, quello nuovo, all'Inate, l'8 ottobre del 2001, funzionava. Mancava il software e il collaudo. Certo, funzionava sperimentale. Nel mondo aeronautico è tutto on test, sperimentale. Quando si compra, quando si rompe, dopo si riaggiusta, tutto rimane per un po' on test, che vuol dire che non rientra nelle procedure operative. Ma se è lì acceso, è lì che puoi aiutare, dico, no? Manca il software della Norvegia, manca il collaudo dei professori, ma se il radar c'è, mi chiedo, se il radar c'è, sul video gli aerei ci sono anche loro, no? Dei puntini che si muovono, dei puntini che in un giorno di nebbia potrebbero dire ad un controllore dove sono gli aerei. Tutto senza software, per carità. Tutto con un collegamento mica troppo tecnico, roba da culo di gomma. Un cavo video come quello che avete in salotto per il videoregistratore portato dallo shelter al piano dei controllori, che guarda caso poi era anche proprio il piano di sotto. Un dubbio, il mio, mica certificato operativo. No, il mio è un dubbio on test, ma ho una netta sensazione operativa. Che sul monitor di controllo all'Inate quel giorno si fossero portati da casa un cavo del videoregistratore con il segnale grezzo. Un Cessna sul Romeo 6 si vede così. Fuori c'era un cartello di cartone, ma si erano portati via anche quello in tribunale. Anche quello come prova. Come prova insieme al borotalco professorio, insieme alla nebbia, quella nebbia che qualcuno durante il processo ritiene che non è un problema significativo del nord Italia, della provincia di Milano più in dettaglio, dell'aeroporto di Linate Bengodi nello specifico. Borotalco e nebbia, ha ragione nonno Cleto, in Italia i processi ai colletti bianchi si riducono sempre ad una gran frittata di borotalco e nebbia, una gran giocoleria bengodiana da teatro di strada sulla declinatoria di responsabilità. Era una delle frasi che ripetevano durante il processo. Declinatoria di responsabilità, scarica barile, aveva tradotto Gio L'Osteria, il padre del postino. I giudici con la bottiglietta si perdono anche loro, con tutto quel borotalco e quella nebbia. per la strage. Sono rinviate a giudizio 11 persone, l'amministratore delegato con 5 dirigenti dell'ENAV, il controllore di terra, il direttore di Linate, il direttore del sistema aeroportuale milanese e 2 dirigenti SEA. Per 4 di loro il processo con rito ordinario si conclude con 4 condanne totali. Montava la voglia di rismontarlo, l'avioporto, con la mazza di culo di gomma, ma erano tempi di guerra, guerra a sopravviversi alla giustizia dei professori, e forse sarebbe meglio farla smettere questa guerra, almeno per quelli che ci saliranno dopo di noi sugli apparecchi, almeno per loro, dicevano Anacleto, che le persone come loro, con il cuore segato in due, ma ancora pulito, che le persone come loro ci credono lo stesso che possa smettere questa guerra. Il 17 novembre 2001 si costituisce a Milano il comitato 8 ottobre per non dimenticare. Intanto nel processo di rito abbreviato il giudice Clivi assolve 3 imputati e ne condanna 4 a 15 anni e 6 mesi, quindi il totale dei primi 2 processi era 44 anni e 6 mesi. Succede poi che tra patteggiamenti, riduzioni, deleghe e deroghe in appello si conclude invece di 44 anni con 28 anni, 6 mesi e 3 nuove assoluzioni. Nessuno ha scontato un solo giorno di condanna. Poi la Corte di Cassazione conferma. Anacleto diceva che era come stare in guerra, che ti veniva voglia di farla, la guerra, altro che musica western. Per 7 anni le autorità responsabili hanno attribuito a ragioni tecniche la mancata installazione del radar di terra. Ma solo poche ore dopo l'incidente, Thor Magnus ha ricevuto una telefonata. Potresti venire a installare il radar? Ci hanno contattati immediatamente, chiedendoci cosa potessero fare, quale fosse il modo migliore per installare il radar al più presto. Ovviamente tutto si è svolto molto velocemente dopo l'incidente. A quel punto tutti erano ansiosi di installare il sistema immediatamente. Così la fase di pianificazione e il resto è stata molto rapida. Prima di Natale l'avevamo già installato. Dopo 118 morti, 7 anni di ragioni tecniche sono scomparsi in una notte. Dicevano, fuori dai tribunali, ai parenti, mica quelli di Bengodi, dicevano che non si può non sapere che i controllori, i funzionari, i dirigenti dell'aeroporto erano all'oscuro di quello che non funzionava. Si vede che dobbiamo studiare aviologia, per salire sugli apparecchi. Intanto ridevano e ridono con quel sorriso marcio che non ha nessuna coscienza sotto. Dove non ci sono i colpevoli, allora i colpevoli sono i morti, diceva Anacleto, e aspettava con gli occhi appesi al cielo la risposta, condanne appese al cielo di fianco alla risposta di Anacleto. Poi ci metti, diceva Anacleto, poi ci metti che cadeva anche la sagra, quella dell'arimo libera tutti, esercizi di stile da capi sindaci per il vero, e allora arimo libera tutti, neanche più appesa al soffitto, le condanne dei professori rimesse, le condanne rimesse al portachiavi del mostro della coscienza, cioè indulto aveva tradotto, cioè l'osteria, sempre il padre del postino, indulto libera tutti, altro che musica western. Nessuno ha perso il proprio posto di lavoro. I professori. Qualcuno è stato addirittura promosso dei professori. Mica Bengodi, eh? In un importante aeroporto della Sardegna. I professori continuano con i loro tagli inaugurazionali, fasciati tricolorici, in giro per altri Bengodi. Ma ne sono usciti un po' più lenti, dice l'Anacleto Giulio. Ne sono usciti un po' più a replay perché pesano 118 morti in tasca. Altro che, se pesano 118 morti, in tasca i professori. Ma per davvero.